Eva, la madre di tutti i viventi. Era tutta presa da ciò che vedeva intorno a sé. Tutto era perfetto. La natura che vedeva era nuova e rinfrescante. L'aria che respirava era pura e senza sozzura. L'acqua che beveva era chiara e scintillante. Ogni animale viveva in armonia con gli altri. Il suo matrimonio era perfetto. La sua comunione con Dio e con il marito era una gioia giornaliera. Eva aveva tutto ciò che uno può desiderare. Poi, un giorno, una voce nel giardino le chiese: Dio ti ha detto che non puoi mangiare del frutto di ogni albero del giardino? Perché? Si domandò lei, pensando alla bellezza speciale dell'albero che stava in mezzo al giardino. Perché la mia intera felicità sembra dipendere dal mangiare quel frutto? Mangiare qualcosa di così desiderabile può essere solo buono. Un desiderio era stato destato in Eva e lei non notò l'inganno nel quale era scivolata, né che la parola Dio era stata alterata e, neppure, che l'amore di Dio veniva messo in dubbio. Eva non sapeva che a parlarle era Satana, l'avversario, camuffato. Egli era stato fin dal principio un bugiardo, un omicida, che desiderava ingannare la gente. Satana non citava con precisione ciò che Dio aveva detto, ma usava parole proprie. L'attacco alla parola proferita da Dio avrebbe dovuto metterla in guardia sul pericolo di ascoltarlo. Avrebbe potuto ancora scappare a questo punto della tentazione perché, pur essendo su un terreno pericoloso, lei era stata creata con una volontà capace di resistere al tentatore. Non avrebbe dovuto dare a Satana questa opportunità di ingannarla, dandogli ascolto. Eva si trovava di fronte a una scelta, ma anzi, peggio ancora, gli rispose. Questo segnò l'inizio della sua disubbidienza. Come Satana, anche Eva alterò le parole di Dio e aggiunse un «Non lo toccate» a quel che Dio aveva enunciato. Infatti, per quanto ne sappiamo, l'Eterno Dio non aveva detto niente riguardo al toccare. Poi lei diminuì l'enfasi che Dio aveva posto sulla morte, omettendo la parola «per certo». Il primo attacco sferrato da Satana aveva avuto successo. Eva era stata disposta ad ascoltarlo, e questo aumentò il coraggio del serpente. Egli a quel punto apertamente chiamò Dio bugiardo. Dipinse Dio come qualcuno che vuol sottomettere l'uomo e limitarne la felicità, dal momento che ne ha il potere. Morire, continuò il diavolo, voi non morrete. Sarete più felici di quanto abbiate mai sognato. Voi sarete come Dio. Egli continuò a tentarla, chiamandola all'indipendenza. L'invito a disubbidire fu fatale per Eva. La sua resistenza fu rotta quando cominciò a discutere con Satana. Allungò quindi la mano e prese del frutto che il suo cuore desiderava. A quel punto il male non poteva più essere evitato. Si era impigliata irrimediabilmente nella rete del suo ingannatore e non c'era modo per scappare e liberarsi. Mangiò del frutto, ma questo non concluse la cosa. La donna che era stata ingannata divenne a sua volta ingannatrice. Eva convinse il marito a prendere parte al suo peccato e lui, senza protestare, accettò il frutto da lei offerto e lo mangiò. In quel momento la sua vita intera cambiò. La creazione di Dio era stata ideale, così perfetta, che egli stesso aveva verbalmente espresso la propria soddisfazione alla fine di ogni atto della creazione. Eppure, mancava qualcosa. Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un compagno, disse l'Eterno. Quando sia l'uomo sia la donna furono creati, l'opera di Dio fu completa e molto buona. Eva era una creatura fatta dalla mano di Dio. Fu creata uguale al marito. La loro unica differenza era il sesso. Essa era eccezionale come essere umano, come Adamo. Come lui era dotata di ragione e di intelligenza, perciò era per lui un partner nella conversazione. Come lui aveva una personale relazione con il suo creatore, che si aspettava da lei l'ubbidienza. Insieme ad Adamo, l'Eterno la rese responsabile di un compito specifico. Dovevano popolare e sottomettere la terra. Eva aveva una relazione singolare col marito. Condivideva la sua vita, lo completava. la sua struttura fisica la rendeva adatta per lui, così che insieme potevano eseguire il comandamento di Dio di moltiplicarsi. Pur essendo stata creata dopo Adamo, Eva non era certamente un progetto secondario. Lei era parte del piano originale di Dio come Adamo. Lei non poteva vivere senza di lui, né lui poteva fare a meno di lei. Nell'ambito del loro matrimonio, Eva era soggetta ad Adamo. Adamo era stato designato da Dio per eseguire la funzione di capo, cioè di guida, per garantire l'ordine sociale, perché Dio è un Dio di ordine. Come marito e moglie, Adamo e Eva formavano un nuovo nucleo, una coppia. Questa coppia era caratterizzata dalla loro personalità. Non era la somma di due individui, era un'entità nuova, unica. E, nel piano di Dio, che i partner di un matrimonio vivano insieme in completa armonia, che si sentano a proprio agio l'uno con l'altro e siano una sola cosa nella loro unione, mantenuta da un amore reciproco e dal rispetto. Eva si rese conto con amarezza di quanto fosse stata ingannata. Lo notò prima di tutto nella sua relazione con Adamo. Era sempre stata a suo agio con lui come Dio li aveva creati. Ora si trovavano ad un tratto timidi e senza difesa. La protezione della loro innocenza era sparita. Scoprirono che non potevano avere una relazione libera e facile. C'erano delle cose che dovevano nascondere l'uno all'altra. Scoprirono non solo di essere nudi l'uno davanti all'altra, ma anche davanti a Dio. La loro purezza se n'era andata. La loro natura senza peccato era stata distrutta. La loro intima relazione con Dio si era rotta. Invece di diventare come Dio secondo la promessa di Satana, essi ora ebbero paura di colui con il quale prima erano in perfetta comunione e fuggirono dalla sua presenza. Poi l'Eterno entrò in quella situazione devastante. Egli prese l'iniziativa di cercarli e con amore li salutò. Cominciò col porre loro una domanda, non un'accusa. Diede loro l'opportunità di riconoscere il loro peccato, ma essi fallirono perché non afferrarono questa opportunità. L'Eterno Dio considerò Adamo responsabile, in qualità di capo della famiglia, che pur essendo presente, non aveva impedito ad Eva di commettere il peccato. Adamo rifiutò la propria colpevolezza e accusò lei. La donna che tu mi hai dato lo ha fatto. Sembrava quasi che Adamo imputasse Dio di avergli dato Eva. Ma Eva passò la colpa a qualcun altro. Diede la colpa al serpente. Eppure, se fosse stata onesta con se stessa, avrebbe dovuto ammettere di aver volontariamente accettato la sua offerta. Era vero, lui l'aveva ingannata. Ma lei aveva disubbidito di sua libera volontà. Lei non aveva superato la prova offertale, come essere umano, di ubbidire a Dio volontariamente, per amore. Il giudizio di Dio che seguì le rivelò l'effetto catastrofico della sua azione. Non solo il bellissimo giardino di Eden, ma tutto il mondo era stato maledetto. La terra, una volta senza erbacce, ora avrebbe prodotto spine e cardi selvatici. Gli animali erano maledetti. La tranquillità del regno animale sul quale avevano dominato era distrutta. Da allora in poi, il lupo e l'agnello non potevano più mangiare in pace insieme. Il forte avrebbe dominato il più debole. Il meraviglioso paradiso nel quale sarebbero potuti vivere per sempre felici, in un attimo, divenne un paradiso perduto. Dio ordinò loro di andarsene subito, perché non mangiassero dell'albero della vita, cosa che li avrebbe costretti a vivere per sempre come gente peccaminosa lontana da Dio. Eva, che era stata il completamento della creazione di Dio e l'ultimo anello della catena di felicità sulla terra, aveva buttato via questa felicità con la sua disubbidienza. E non solo la sua felicità, ma anche quella di ogni essere umano e di ogni animale che sia mai nato. La gioia della maternità sarebbe stata temperata dal dolore e dai problemi. Il peso del dominio ora avrebbe influito sulla sua relazione col marito. Egli ora avrebbe dominato su lei a causa del peccato. E se anche Adamo ed Eva fisicamente non morirono subito, l'istituzione della morte fu il risultato del loro peccato nel giardino. In un secondo, essi diventarono degli esseri umani soggetti alla morte. Ma Molto peggio della morte naturale era la morte spirituale, l'abisso che li separava da Dio. Questo, più di tutto il resto, Eva sperimentò con dolore dentro di sé. Era una donna sola, il momento del parto fu difficile per lei. Essendo la prima donna sulla terra, non aveva né sorelle, né madre, né amiche con le quali condividere i suoi sentimenti. Non c'era nessuno che la potesse consigliare, non c'era altra donna che potesse aiutarla al momento del parto. Che strana esperienza diventare madre quando non sei mai stata figlia tu stessa, ma che cosa ne sai di figli? In questa difficile circostanza, non è strano che Eva abbia contato sull'aiuto di Dio. Io ho dato alla luce un uomo, con l'aiuto dell'Eterno, e sorrise al suo bambino di nome Caino. Adamo ed Eva non furono gli unici ad essere puniti per il loro peccato contro Dio. Il castigo di Satana fu molto più grande. Gli fu predetta la distruzione da parte di uno chiamato Emanuele, che sarebbe nato della razza di Eva. Sperava Eva che il figlio che aveva tra le braccia, il Messia promesso, Eva era una dimostrazione vivente della fede, quella fede che uno non può affondare tanto da non poter più ritornare a Dio. E della speranza, speranza che Dio dia nuove possibilità, non importa quanto grande sia, fosse il peccato. Eva si sentì distrutta quando Caino uccise suo fratello. Si rese conto di aver dato alla luce un nuovo peccatore. Egli era un omicida. La terribile conseguenza della sua azione nel giardino divenne ancor più chiara per lei. Lei aveva trasmesso la morte spirituale e fisica ad ogni essere umano. Nessun essere umano sarebbe più vissuto nell'innocenza, come invece era stato per lei un tempo. Ogni persona nata avrebbe peccato, non solo per sua scelta, ma anche a causa di una costrizione interiore. Ognuno avrebbe affrontato una battaglia senza fine tra il male ed il bene. Senza eccezione, ognuno sarebbe stato separato da Dio a causa del peccato. Satana fa sempre appello ai desideri dell'uomo, cercando di adescarlo. Il peccato e la morte entrano in scena ogni volta che uno cede ai propri desideri malvagi. In ogni generazione ci saranno persone come Eva, mosse dal desiderio di possedere in modo illecito ciò che gli occhi vedono e di soddisfare i desideri dell'orgoglio. Satana cerca di spingere ogni persona contro Dio proprio come ha fatto con Eva. Suscita in ciascuna la ribellione e l'ingratitudine, in modo di farla cadere come lui è caduto, per l'orgoglio. Anche tanti anni dopo gli eventi in Eden, quando il peccato sarà stato espiato da Gesù Cristo, ed ogni persona che avrà creduto in lui avrà di nuovo accesso a Dio, anche il migliore degli uomini si renderà conto che, mentre desidera fare il bene, è attirato verso il male. Solo Gesù Cristo, colui del quale era stato profetizzato, ha dimostrato che l'uomo può vincere la tentazione se si attiene alla parola di Dio. Come risultato del peccato di Eva, le lacrime, i lamenti, la pena che gli uomini sperimentano ora, continueranno fino al nuovo regno. Fino a quel tempo, ogni essere umano sarà macchiato dal peccato. Sino ad allora ogni persona sarà esortata a non seguire l'esempio di Eva. Eva, la madre di ogni essere vivente, è per tutti uno spaventoso esempio. È stata la donna che ha permesso l'entrata del peccato nel mondo, quando ha consentito a Satana di farla dubitare della parola di Dio e del suo amore. Ma è anche vero che tramite la donna sarebbe entrato nel mondo il Salvatore, colui che avrebbe una volta per tutte tolto le conseguenze degli errori di Eva. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti,